Gli ultimi minuti di trasmissione li dedichiamo ad una campagna rivolta agli uomini di età compresa tra i 65 e gli 80 anni. Ha uno slogan chiaro, diretto, un minuto che vale una vita, un testimonial d'eccezione, Giuliano Gemma, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno. E ha un obiettivo molto importante che ci facciamo subito spiegare dal dottor Peinetti, segretario della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, che ha promosso e organizzato questa campagna di screening. Buongiorno dottor Peinetti. Buongiorno a lei, buongiorno. Dottore, perché e come un minuto può valere una vita? Lo slogan che abbiamo trovato come Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare per questa campagna è legato al fatto che è necessario, sufficiente un minuto di attenzione da parte dei pazienti, da parte del medico di base, da parte nostra di specialisti vascolari per studiare con un banalissimo esame che è un ecocolor Doppler non invasivo, totalmente indolore, la presenza o meno di un aneurisma, cioè di una dilatazione patologica della principale arteria del nostro corpo che è l'aorta. In questo caso con un semplicissimo esame noi siamo in grado in pochissimo tempo, in pochi minuti appunto, di riuscire a diagnosticare una patologia che se presa in tempo è sicuramente molto ben curabile. Giuliano Gemma, perché lei ci ha messo la faccia, come si dice? Perché ha accettato di diventare testimonial di questa campagna? Beh, perché è un fatto umano, sociale, importante per tutti noi. Anzi, volevo chiedere al professor Peinetti come va quel paziente che durante la cena che eravamo insieme cenando e ha dovuto scappare per un intervento. Come è andato? Come sta il paziente? Va bene Giuliano, grazie, va molto bene. Quindi devo dire che nella sfortuna è stato fortunato perché aveva già tutti i medici a disposizione, dottor Peinetti. Sì, eravamo proprio a cena con il nostro carissimo testimonial e sembrava quasi una scena preparata, purtroppo non lo era, fortunatamente è andato tutto bene insomma. Bene, poi anche essere insieme a tanti medici poi non so se è un vantaggio o un rischio, no? Meglio consultarne uno alla volta, Giuliano che dice? Ma soprattutto è meglio comunque farlo, stiamo sempre correndo, ecco, regaliamoci un minuto per prevedere certe cose che a volte si arriva troppo tardi, ecco, questa è una cosa molto importante, potersi controllare e approfittare di questa organizzazione. Sì, tra l'altro la Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare si è fatta proprio carico, no? Di questo progetto pilota, perché a tutti gli effetti è un progetto di una campagna di screening, hanno aderito quasi 30 centri in 16 regioni italiane. Come funziona, dottor Peinetti? Ma funziona in questo modo, noi abbiamo deciso di farci carico della campagna proprio per evitare di sovraccaricare... Far spendere soldi alle strutture pubbliche, quindi abbiamo deciso di fare una campagna di promozionale, un progetto pilota che coinvolga quasi tutto il territorio nazionale. Pensiamo di riuscire a studiare circa 30.000 pazienti con l'ecocolor Doppler, pazienti che riceveranno nei comuni che abbiamo individuato su tutto il territorio, riceveranno una lettera con un numero verde a cui telefonare e gli verrà detto esattamente il giorno e l'ora in cui si dovranno presentare per effettuare l'ecocolor Doppler. Allora, un minuto che vale una vita, un progetto che coinvolgerà quasi 30 centri in 16 regioni italiane, ma dottor Peinetti, e lo chiedo naturalmente al vostro testimonio, alla Giuliano Gemma, un messaggio anche per gli uomini, compresi tra i 65 e gli 80 anni, che non risiedono nei comuni che hanno aderito a questa iniziativa. Iniziamo da Giuliano Gemma. La cosa importante è non mancarsi, non mancare questo appuntamento e cercare senz'altro di fare un controllo. Assolutamente, dottor Peinetti. Quindi, operativamente, per chi non è raggiunto direttamente da questa campagna, cosa deve fare? Anche se non ha fattori di rischio, anche se si sente bene, anche se è in ottima salute, questa è un'età un po' a rischio, quindi? Vede, il fatto di sentirsi bene purtroppo non è sufficiente per questo tipo di patologia, che è una patologia molto grave perché colpisce di quella fascia di età maschile che abbiamo individuato noi, può colpire addirittura il 15% dei pazienti in maniera del tutto asintomatica. Spesso questi pazienti non sanno di avere i fattori di rischio o quantomeno sono dei pazienti che sottostimano i loro fattori di rischio. Noi pensiamo che con questa campagna raggiungeremo già molti pazienti, tutti quelli che non sono residenti in questi comuni possono comunque rivolgersi al proprio medico di base e al centro vascolare di diagnostica e di chirurgia vascolare più vicini, che sono sparsi su tutto il territorio nazionale, per eseguire l'esame. L'altro dato è che noi pensiamo che con questa iniziativa di avere il sostegno per il prossimo anno, come ci è stato detto sia dal Ministero che dalla Commissione Sanità del Senato, per poter allargare il progetto su tutto il territorio nazionale. Allora, grazie al dottor Peinetti per essere stato con noi. Invece un abbraccio grazie, a Giuliano Gemma. Ne approfittiamo. Grazie, grazie davvero. E per oggi è tutto, cari amici. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Domani vi aspetto, come sempre, dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.